Quindi i complimenti verbali sono potenti mezzi per dimostrare amore, no? Quindi per rassicurare. È ovvio che non diremo mai a nostro marito: era ora che andavi a buttare la spazzatura, lo stavano a fare le mosche al posto tuo. Oppure lui non dirà mai alla moglie: quella torta che mi hai fatto quando è nato nostro figlio era buona, non vorrei aspettare che diventa maggiorenne per rimagnarmela. Cioè, ci sono delle situazioni, delle parole di incoraggiamento, di parole gentili, no, eccetera, che aiutano, sostengono la nostra relazione. Per alcuni può significare veramente sentirsi amati. Ci sono degli uomini che appunto magari gradiscono queste considerazioni, perché i nostri mariti evidentemente avranno, faranno delle cose fatte bene. È vero che gli stiamo dicendo da mesi di dipingerci la stanza o il corridoio, lui non lo fa, cioè, ma lo sa, certo, sono 9 mesi che glielo dico. E quindi perché non lo fa? Perché probabilmente non gli abbiamo mai detto le cose buone che fa. Ci avrà delle cose che fa buone, ma non gliele abbiamo mai dette. E quindi questo continuare a rimarcare solo le cose magari che non fa o che fa meno bene o che fa male, evidentemente non lo spinge, non lo incoraggia a fare quello che gli si chiede e che sa esattamente che cos'è. Insomma, delle volte può essere anche appunto la mancanza di perdono, no? E può capitare che magari lei non dica così abitualmente magari al marito che determinate cose sono superate, no? Le donne poi in questo sono delle maestre. Io mi ricordo, mia moglie mi ha svegliato la notte, faceva: ecco, che fai, dormi? E beh, si sono le 3 di notte, che succede? Tanto a te che te frega, te basta che dormi. Vabbè, dico, sono le 3, che faccio? Che faccio? Mi vesto, vado in giro per Roma? Tanto tu già ti sei dimenticato tutto, no? Capirai. Certo, lui che gli frega, guarda come dorme. So le 3, so le 3. E ti ricordi 2 Natali fa? Tu già ti sei scordato di 2 Natali fa? Quando? Sì, è 2 Natali fa, quando papà non riusciva a prendere il tabellone, c'avevi sempre te. Io me lo sono scordato, te credi? Ecco, tante volte questo fatto di sospendere i giudizi, no? Di portare rancore, di segnarsi le cose e di pretendere che questo ci dimostri il suo pentimento in ginocchio. Non basta che dici questo, scusa. Sì, scusa. Tu la fai presto così, scusa. E che te devo dire? Scusa, scusa. No, sì, scusa, scusa. Scusa al quadrato, no, no, no. Scusa al quadrato, no. Al cubo, no, no, nemmeno. Me lo devi dimostrare. E come faccio? Come faccio? No, adesso è facile. No, mi dispiace. No, no, no. E quindi ci sono delle situazioni che vanno avanti e lui non sa come fare, se deve flagellarci, guarda, mi sono fatto male, insomma, non si sa come uscirne, no? E questo noi immaginiamo, evidentemente, in questo cerchio di situazioni, immaginiamo invece di uscirne, no? Di uscirne, perché noi ci immaginiamo una famiglia meravigliosa e quando torniamo a casa c'è una fotomodella che ci aspetta, no? Noi uomini appunto immaginiamo: sì, adesso io tornerò, insomma c'è mia moglie, no? E quindi sarà come al solito meravigliosa, queste case stupende, ce le immaginiamo nei nostri sogni, no? Quei figli tutti biondi, coi boccoli, queste case grandissime, col parquet per terra, con tutte le finestre aperte e lei con la messa in piega che non si spostano i capelli, nonostante la corrente, eccetera, no? Tu t'affaggi queste spighe di grano, no? Questo sole, non è mai nuvoloso. È una cosa meravigliosa, no? Eccetera. Quindi tu dici: oddio, adesso io arriverò questa Carol Alta, arriverà verso di me, ci sarà un abbraccio tenero, no? Perché loro mi aspettano. Loro aspettano papà, aspettano me, i bambini quanto sono belli, tutti angioletti, no? Papà, eccomi, guarda, ecco i compiti: 10, 10, 10, 10, 10. Che bello, no? Eccetera. E tu arrivi la sera, finisce il lavoro e citofoni, perché ognuno c'ha un citofono, c'ha pure voi, c'ha un citofono. Ma non succede niente, cioè passano i minuti, passano i quarti d'ora, passa la mezz'ora, dice: oh, tanto fuori si fa la fila perché a Roma ci sono i palazzi. Dice: senta, ma lei abita qui? Come no? Certo che abita qui. Perché? Dice: ma non si ricorda ieri all'assemblea, c'ero pure io. Sì, è vero, c'ha ragione. Ma che devo fare? Guardi, noi devo entrare a casa. Aspetta, adesso qualcuno arriverà, ho citofonato. E poi una vocetta magari piccola dice: chi è? Sono io. Io chi? Come io chi? Io, so io. Ha detto: mamma, non abbiamo bisogno di niente. Guarda, apri la porta che butto giù il portone. Poi appunto arrivi su nel pianerottolo, suoni e ti aspetti questa fotomodella e vedi in lontananza un cesto di bigodini con una ceretta bianca qui, magari, no, che si fa avanti in vestaglia. Beh, adesso dove vai? Niente, volevo solo entrare. Sì, ho pulito adesso, ho pulito. E che faccio? Sto sul pianerottolo. No, sì, beh, volevo un attimo andare al bagno. Ma il bagno? Ma che sei matto? L'ho pulito, oh! Ma che dico, oh! Ma che sei scemo? E dammi l'accappatoio da fare la doccia dalla vicina di casa. No, no, piuttosto passa sul battiscopa. Tu ti alleni sul battiscopa e piano piano conquisti il centro dell'abitazione. I biondi, i boccoli non ci stanno, ma stanno tutti dietro col carpale sulla PlayStation a giocare, no? Sono tutti ovviamente disseminati. Poi tu conquisti la cucina e arriva tua moglie. Arriva tua moglie a un certo punto che parla. Parla e parla e parla e parla e parla. E poi parla ancora giù, parla. E tu stai un attimo così, dice, ecco, e quindi hai capito allora? Che mi dici tu? Che ti dico? C'hai ragione, c'hai ragione. Come c'hai ragione? C'hai ragione, io facevo come hai fatto te. La stessa cosa, non è che io mi voglio mettere a fare un'altra cosa, per me c'hai ragione te. Ma che cosa? Ma vedi, ma come? In quale punto? Quale punto? Quale punto? No, dice in quale punto del discorso? Beh, in generale, cioè. Ecco, lo vedi, non mi stai a sentire dopo 2 ore e mezza di discorso, perché tu eri entrato con gli stecchini, l'hai messo qua, uno se l'ha staccato, ovviamente ti sei addormentato un attimo, perché lei non vuole la soluzione, non vuole ricevere soluzioni, lei vuole che tu gli presti attenzione. Vuole che tu la ascolti per 2 giorni, per 48 ore, che tu la devi ascoltare. Tu poi diventi come quelli che stanno a Pompei, a Ercolano, così, perché lei deve parlarti, no? Invece l'uomo, quando tu lo chiami, lui arriva per darti delle soluzioni. L'uomo è fatto così. L'uomo, se tu lo dici, senti, te volevo chiedere una cosa. Allora, guarda, spiegami che io ti do la soluzione. Cioè, se la donna coinvolge l'uomo, l'uomo dice, c'ho la soluzione per te. Allora, evidentemente ruoli, compiti e responsabilità, c'è la delega è uno strumento importante, la puoi utilizzare in questo modo, gli dai tutta una serie di input, di soluzioni e lei, no, non le vuole, lei vuole che tu la ascolti e basta, lei vuole parlare. Una sera abbiamo detto, guarda, Manuela, c'è mia sorella che vuole venire al mare con noi giù a Praia a Mare, dico, c'è un paese, insomma, il primo della Calabria, abbiamo una casetta, dice, guarda, mi raccomando. Basta che tu telefoni a questa amica tua, gli dici ce l'hai casa dal 1° al 15 di agosto? Guarda, una cosa stupida, sono le 8 meno 5, alle 8 ceniamo. Io penso che con 5 minuti gli se la fa. Francesco, ciao, senti, ce l'hai casa dal 1° al 15? Sì, quanto costa? Ah no, non ce l'ho. Vabbè, senti, ci sentiamo domani. Ciao. Hai capito, Manuele? È una stupidaggine, è una fesseria. Fra 5 minuti si mangia, i ragazzi siamo già pronti, vai. Sì, te te pare, mo adesso io gli telefono, la sento da 2 ore, capirai? Insomma, vabbè, ma non è mica tanto 2 ore, no? Sì, vabbè, mo che faccio? Gli telefono così, devo trovare una scusa, no? Devo fare un prologo, devo fare un prologo. Vabbè, fa un prologo, dico, breve, insomma, sono 8 meno 5, un prologhetto, insomma. Tieni conto, già siamo pronti, insomma. No, vabbè, molto, vabbè, ci penso io, però che palla, questa cosa mi vado a farla, ma per niente, si poteva fare domani, ma falla adesso, così poi, vabbè. Pronto? Sì, Francesco? Ecco, senti. Allora, in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, insomma, noi inizia tutto un discorso piuttosto lungo, tanto che chi sta per bagno rimane incastrato nella tazza, chi sta davanti alla minestra s'appuzza sul piatto e rimane incatramato, eccetera. Quindi voglio dire, ci sono quelle situazioni ovviamente tipiche, no? Però ecco, fare buon viso, questo è quello che ci diceva un sacerdote quando ci ha sposato. Mi raccomando, Pierluigi, fai buon viso. Fai buon viso. Tu arriverai a casa stanco la sera, ti togli l'armatura come un guerriero che torna da una grande battaglia, no? Ecco, allora però stai lì, non metterti le pantofole, ma insomma rimani nell'arena, cerca di renderti utile, soprattutto se ti fa la pasta e magari è scotta, non farglielo pesare. Non dirgli nulla se magari è sciapo, se è troppo salata, non farglielo pesare. Cerca di avere veramente, ecco, di fare buon viso, mi raccomando. Allora, sono entrato una volta a casa, c'avevamo queste case senza pareti, no? Perché gli architetti oggi le pareti ne fanno più, no? Dice che ci fanno con le pareti, no? E quindi uno entra, vede quello che sta al bagno, quell'altro che sta lavando i denti, cioè c'hai tutta una visuale piena, no? Dell'appartamento, questo open space, no? Dove tutti, c'è l'angolo cottura, l'angolo del bagno, tutti gli angoli, no? E quindi si è messa sui 4 cantoni, e uno sta lì e tu entri e io sono entrato e ho visto un tavolo al centro con una sorta di cupola, una cupola c'era, tutta scura con una cosa bianca sopra. Fai buon viso, sì, ecco allora. Che è quella lì? Che è? Dico, hai fatto una centrotavola, l'hai fatto tu? E che fai? Un corso di Ikebana? Come ti è venuto in mente quella cosa? Che è? Ma come? No, dico, quella cosa bianca, che è cascata? Un pezzo d'intonaco, che è successo? Ci hai messo l'interruttore da bitticino come guarnizione, che cos'è? Ma quelli sono i fagioli. Ah, sono i fagioli? Cioè, sì, so che mamma tua dice che ti piacciono tanto, allora io ti ho fatto i fagioli. E quello sopra che è? Quello è aglio. È aglio. È tanto, è grosso. Non l'ha preso. Dice no, perché c'è Irma, quell'amica mia, che c'è il papà, che c'ha un orto vicino alla centrale nucleare di Montalto di Castro. E quando pianta una cosa, gli vengono delle cose, delle melanzane da qui a laggiù, ce vanno in 12 a pianne una, pensa. Ci hanno questi pomodori da 3 quintali e mezzo ciascuno, insomma, e l'aglio viene così. E dico, vabbè, ma dico, io mica faccio immersioni, che è tutto staglio. Dice, no, perché appunto regola i battiti cardiaci e l'afflusso del sangue. Ma io mica soffio da Mallorca, cioè io rimango in superficie, perché fai buon viso, sì. Ah, già, sì, è vero, a me mi piace l'aglio, c'hai ragione. Tira fuori l'affettatrice, ne fa 1,5 e io me lo mangio, dai, sì. E quindi prendo questi fagioli, me li metto in bocca, mi salto un molare. E dico, oh, l'hai fatti al sangue? Dice, come? Perché, no, dico, so al dente, così come piacciono a me, tra l'altro. Dico, ma come li fai? Dice, come li faccio? Prendo una pentola, ci metto l'acqua, ci metti i fagioli, mezz'ora li servo. E certo, mica li metterai a bagno, Dice, no, una volta, adesso si usa più. E quindi fai buon viso, mi mangio questi fagioli con tutto staglio, 1,5 chili d'aglio, c'avevo 4 amici al giorno appresso, ho persi tutti. E quindi ovviamente ho messo la scrivania vicino al bagno, perché dico tanto è inutile che io faccio avanti e dietro, perché ovviamente insomma c'avevo pure il minimo di short, eccetera. E quindi questo è un po' quello che ci verrebbe in mente.